Un giorno come un altro mi sei venuta incontro, mi hai preso per la mano, mi hai detto adesso andiamo. Sembrava che gridassi al mondo di ascoltarti, portava via il vento quello che avevi dentro. Guardarti negli occhi bastava capire quello che ti aveva fatto soffrire. Anni passati a cercare qualcuno che potesse ascoltarti e non solo usarti, senza bisogno che tu ti drogassi per scappare dal mondo di fuori di te. Confusa tu mi hai detto, dai vieni con me a letto, come tu molto hai fatto, senza volerlo affatto, per cancellare tutto il male che ti ha dato, dopo averti umiliato e poi etichettato. Guardarti negli occhi bastava capire quello che ti aveva fatto soffrire. Anni passati a cercare qualcuno che potesse ascoltarti e non solo usarti, senza bisogno che tu ti drogassi per scappare dal mondo di fuori di te. Aspettavi, bambino non sapevi chi te l'aveva dato, chi ti aveva stuprato. Forse eri malata, da qualcuno infettata, quando eri incosciente e non capivi niente. Piangevi poi